Eccoci a visionare il cinema su Radio Onda Rossa. Giovedì 24 marzo del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza per ascoltarci in diretta, oppure ci si può seguire anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. E per quanto riguarda le informazioni sulla trasmissione, basta andare sul sito internet della radio, sull'home page, sulla colonna centrale Trasmissioni Visionari, oppure sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci in diretta con Federico Di Cicilia, regista della docu-fiction Irpinia, Mon Amour. Federico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora, questo mi avevano segnalato questo lavoro per il Laceno d'Oro. Allora, raccontaci un po' di questa storia, di cosa si parla. Allora, il Irpinia Mon Amour innanzitutto un viaggio individuale e collettivo. Un viaggio individuale perché seguiamo la storia di un ragazzo che cerca un posto giusto e un modo spettacolare per togliersi la vita, scatenando così situazioni a volte comiche, a volte drammatiche, grottesche. Mm-hmm. Collettivo perché seguiamo le vicende di un popolo, cioè il popolo irpino. È un viaggio nella memoria e nella storia, perché ritorniamo su un evento che ha segnato in maniera definitiva l'Irpinia e forse l'Italia intera, il terremoto dell'80. Sì. Attraverso il racconto di un ragazzo che ha perso suo padre sotto le macerie ed ora è costretto a fare militare in Afghanistan, cerchiamo di analizzare il presente. E quindi è forse qui che il viaggio individuale diventa collettivo, perché comunque gli anni 80 hanno segnato uno spartiacque anche per l'Italia intera. Vedi per esempio la nascita della Lega. E poi diventa anche un viaggio nella solitudine della sinistra, perché suo fratello Daniele ha vissuto parte della sua vita a manifestare contro la guerra ed ora invece vede appunto suo fratello soltanto in chat da Herat, vestito da militare. Quindi è un viaggio nella crisi dei valori della sinistra, la crisi economica che riaccende lo spettro dell'emigrazione sempre presente nelle nostre terre. E poi è un viaggio nell'Irpinia del mito del turismo che non è mai stato veramente attuato, attraverso anche la visione di questi luoghi spettacolari, belli, che però rimangono là isolati. Ed infine diciamo un viaggio d'autore perché ripercorre in maniera totalmente personale tutte le tematiche che hanno caratterizzato il mio percorso professionale. Un film che diciamo possiamo osare magari definire neorealista. Mm-hmm. E questo diciamo un po' la sintesi di questo film. Senti, ma è corretto definirlo una docu-fiction? Sì, è corretto perché appunto essendo appunto un viaggio molto personale ci sono molte scene che sono totalmente chiaramente inventate, quindi sono fiction, però ho cercato sempre di attenermi insomma sia alla realtà documentata sia per quanto riguarda gli aspetti sociali, gli aspetti storici legati alla guerra in Afghanistan, al terremoto, e anche gli aspetti legati appunto alla società attuale che con le problematiche dei giovani senza lavoro eccetera. Senti Federico, come era nato questo progetto? Questo progetto è nato perché insomma è stato sempre là, è sempre stato nel cassetto, nel file, perché comunque il mio percorso è cominciato così ed è sempre proseguito, cioè l'analisi del mio territorio, l'analisi appunto dei posti, delle persone, della società che mi ha visto crescere, e quindi ho sempre fatto dei lavori legati all'Irpinia e ho cercato di sintetizzarli o comunque renderli definitivi in questo lavoro, perché utilizzando anche mezzi tecnicamente superiori rispetto, io ho cominciato diciamo con la telecamera VHS e quindi il mio percorso è nato in questo modo, capisci che insomma la tecnica si è evoluta in maniera abbastanza certo. Importante, quindi ho cercato di raccontare tutte queste cose che avevo in parte già raccontato, però in maniera anche migliore dal punto di vista tecnico. Quindi è stata un'esigenza molto, molto personale, diciamo, che mi ha spinto a fare. Poi ho trovato dei compagni di viaggio, compagni di lavoro, Pierpaolo Di Marino, che ha collaborato sia alla scrittura della sceneggiatura che alla fotografia, e altri vari giovani attori che si sono impegnati, giovani attori alpini o comunque ragazzi che si impegnano nel sociale, hanno blog, tipo Spina Paranoica, questo Luigi Capone, insomma, che comunque anche loro hanno questo desiderio di raccontare il nostro territorio, e quindi ci siamo uniti e abbiamo fatto questo lavoro. Senti Federico, parlavi di varie questioni, dalla crisi economica all'emigrazione. Qual è la condizione dei giovani oggi in Irpinia? La condizione dei giovani oggi è, penso, una delle peggiori, sia dal punto di vista storico per l'Irpinia, sia dal punto di vista forse nazionale. C'è una statistica che dimostra ciò. L'Irpinia è il territorio che ha avuto più suicidi nel 2014 e 2015. Già soltanto questa statistica fa capire, insomma, com'è difficile affrontare la vita per un giovane che vive in questo territorio. Non sono in grado di fare un'analisi su cosa si dovrebbe fare per sistemare insomma, per abbassare questa statistica, per migliorare la condizione di vita, che non so se è soltanto riferita alla crisi economica. Qua c'è una crisi totale di sistema, di valori, di famiglia, è un territorio, è una società squarciata da varie problematiche, e appunto non sono in grado di dare delle soluzioni, però questa è la realtà, cioè si vive, si respira, e purtroppo avendo un figlio piccolo, insomma, è anche preoccupante per il futuro. Questo è. Senti Federico, per saperne di più su questo lavoro, anche su eventuali proiezioni pubbliche, su uscite, su programmazioni televisive, dove si può cercare in rete? Sì, noi abbiamo un sito gianfilm.net, poi abbiamo anche una pagina Facebook, Irpinia Mon Amour. Comunque il film uscirà per la prima volta in sala il 20 aprile ad Avellino, avremo questa prima proiezione al Cinema Partenio alle ore 21:30, e poi farà parte di una rassegna il 27 aprile a Caserta, la multisala Duel. Poi stiamo cercando altre date, insomma, poi chiaramente le metteremo sul sito gianfilm.net, quindi lì aggiorneremo costantemente appena riusciamo a trovare nuove sale, perché chiaramente abbiamo deciso di fare una distribuzione porta a porta, sì, diciamo, sì, così, sì. Quindi distribuiremo da soli il film, perché è difficile distribuire un film del genere, anche se noi abbiamo partecipato al Davide, non siamo stati purtroppo selezionati nella cinquina, però abbiamo il desiderio di vederlo in sala, di sentire le opinioni della gente, di permettere appunto la visione di un film che comunque è critico e può servire a qualcuno, a qualcosa. Bene. Bene Federico, allora segnalaci le prossime novità per quanto riguarda le proiezioni, e speriamo di risentirci presto. Benissimo, ti ringrazio, un saluto a tutti. Ciao, un abbraccio, ciao. Federico Di Cicilia, regista della docufiction Irpinia Mon Amour. Eccoci con Michele Cinque, regista del documentario Sicily Jazz, The World's First Man in Jazz. Michele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buon pomeriggio Federico e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ho scoperto del tuo documentario su Italian Doc, mi incuriosiva molto la storia, raccontacela un po'. Ah, intanto io ti volevo ringraziare dell'invito e volevo sottolineare il fatto che sono cresciuto con Radio Onda Rossa, comunque frequentando, insomma, i centri sociali e gli ambienti romani, e quindi insomma sono molto contento di essere ospite della tua trasmissione. Bene, mi fa piacere. Il film diciamo che racconta la vicenda umana, e quindi è un film in parte biografico di Nicola Rocca, questo siciliano di seconda generazione nato a New Orleans alla fine dell'Ottocento, che con la sua band nel 1917 incide il primo disco della storia del jazz. La band si chiamava Original Dixieland Jazz Band, incidono per la Victor e vendono nel giro di un anno circa 1,5 milioni di copie, per cui è un successo planetario. Arrivano a suonare addirittura, a fare una tournée in Inghilterra per re Enrico V, a suonare al ballo dell'armistizio alla fine della prima guerra mondiale, per cui diciamo sono un po' i Beatles degli anni 10. E questa storia è completamente dimenticata, diciamo questo cromosoma siciliano italiano del jazz è completamente dimenticato dalla storiografia ufficiale. E quindi tutto nasce dal fatto che io ho trovato questa storia investigando negli Stati Uniti per un altro film e mi sono un po' innamorato di questa vicenda, appunto, tra due mari, perché poi la Sicilia appunto e New Orleans avevano incredibili rapporti commerciali alla fine dell'Ottocento, e quindi diciamo che da questo poi nasce anche, inizia una grandissima migrazione che porta circa 30.000 siciliani all'inizio del Novecento su una popolazione di 200.000 persone a New Orleans, e quindi diciamo che poi i siciliani e gli afroamericani che abitavano a New Orleans suonavano insieme la sera. E quindi poi alla fine insomma diciamo che nel jazz c'è anche questo gene siciliano italiano. Senti, il suo contributo nella Dixieland Jazz Band, ma anche più in generale nella scena jazz dell'America del Nord, nella parte più meridionale? Beh, diciamo che appunto la Original Dixieland Jazz Band, che poi a quei tempi i jazzisti facevano tutti altri lavori, cioè Nicola Rocca era un elettricista insieme al suo socio Eddie Edwards, che è il trombonista della band, per cui siamo in un'epoca in cui ancora con la musica non si campava, questo per dire che loro vengono poi invitati a suonare a Chicago negli anni 10 con questa band appena formata, siamo nell'epoca del diciamo comunque dei gangster a Chicago, per cui suonano addirittura in dei bar in cui legati ad Al Capone, quindi in tutta questa atmosfera poi degli anni 10 degli Stati Uniti, e portano, però iniziano a portare, sono i primi ad esportare la musica di New Orleans nel nord, quindi a Chicago e poi successivamente a New York, dove hanno il successo, dove inizia il grande successo, perché vengono notati da un impresario della Victor mentre suonavano in un noto ristorante a Columbus Circle nel 17 a New York, che si chiamava Rice and Webb, vengono notati e vengono chiamati a incidere prima che per la Columbia e poi per la Victor, e da lì succede, diciamo, diventano delle star mondiali. Quindi sicuramente il contributo nel jazz è un contributo di portare la musica fuori da New Orleans, e sicuramente diciamo che poi questo personaggio è un personaggio molto complesso, e c'è un motivo per cui è stato dimenticato dalla storiografia ufficiale del jazz, cioè le sue ombre poi in qualche modo lo condannano a questo, diciamo, a questa assenza rispetto proprio alla storiografia, perché poi diciamo lui sul finire della vita ha una deriva psicotica e rilascia delle interviste che diciamo sono, possono essere definite sicuramente xenofobe, con dei toni razzisti, per cui se la prende con gli afroamericani, perché lui non viene citato, diciamo, nelle storiografie ufficiali, e quindi in qualche modo io, per descrivere questo personaggio, ogni tanto una frase che mi viene è che è un uomo che ha tentato di riservarsi un posto tra le stelle della musica, però sbagliando quasi tutto a livello umano. Quindi è anche un antieroe, quindi è una storia anche molto complessa, ecco, sì, questo sì, per, sì. Senti, per dire che non è solo un viaggio nel successo di una band dimenticata. Sì. A proposito della Sicilia, mi veniva in mente il fatto, volevo chiederti intanto qual è l'affinità tra la tradizione musicale sicula e il jazz, perché pensavo per esempio all'esperienza delle, chiaramente, le bande di paese che hanno, certo, fatto la storia musicale, e anche il contributo che hanno dato ad artisti moderni, cioè contemporanei, molti si sono formati proprio nelle bande di paese. Ecco, qual è il passaggio dalla banda di paese al jazz? Allora, diciamo che questo è hai trovato uno degli elementi musicologici più fondamentali, poi, del legame che c'è tra un certo sud, anche Italia, ma anche un sud della Spagna. Comunque questo modo di fare musica bandistica di paese, che è un modo anche in cui, appunto, poi quando interi paesi dell'Italia del Sud si spostano negli Stati Uniti, si portano dietro i loro strumenti e continuano, sì, a suonare. La stessa banda di Salaparuta, da cui viene il padre di Nicola Rocca, che è un cornettista nella banda di paese, alla fine suona a New Orleans, a Congo Square, insieme agli afroamericani, perché appunto si portano dietro la loro cultura e la loro musica, sì. Quindi da un lato è sicuramente, noi portiamo a New Orleans questa esperienza delle bande popolari, questa esperienza di una tradizione, di un repertorio anche bandistico, che poi confluisce assolutamente nel jazz, addirittura. Diciamo, l'elemento poi divertente di questa storia è che la struttura delle funeral band a New Orleans è molto simile alla struttura delle bande di paese quando accompagnano il feretro prima al cimitero e poi successivamente, diciamo, ritornano nella casa poi dei parenti. Questa struttura proprio è praticamente identica, nel senso che all'andata, quando si porta il feretro a New Orleans al cimitero, c'è una musica triste, e quando si ritorna c'è una musica che inizia a jazzare, inizia a prendere un ritmo più allegro, e questa cosa c'è anche in Sicilia, con poi l'annacata e tantissime altre modalità, appunto, di bandistiche. Adesso, senza andare troppo nel dettaglio, comunque il legame è fortissimo, proprio in un modo di fare musica che a New Orleans è ancora completamente vivo anche dopo Katrina, quindi questa musica che poi si diffonde in tutta la città e una musica di strada anche. Senti Michele, per saperne di più su un calendario di proiezioni, ma anche sulle novità rispetto a Sicily Jazz, in rete dove si può cercare? Allora, da domani andremo in onda con il sito, quindi www.siciliajazz.com, siamo su Facebook e anche la società di produzione, che è la Lazy Film, troverete tutte le informazioni. Diciamo, poi, come sai meglio di me, l'iter a livello distributivo è sempre complesso di questi prodotti, però stiamo girando i festival e ti posso dare un'anteprima, che stiamo organizzando un tour siciliano con Roy Paci e Sal Bonafede, che sono gli autori delle musiche. Ah, vedi? Dei concerti e delle proiezioni del film in Sicilia. Quello che ti dicevo prima era proprio in relazione, feci una volta un'intervista, una chiacchierata con Roy Paci, e lui viene dalla tradizione delle bande. Infatti io l'ho scelto apposta per quello, perché veniva dalle bande e quindi aveva proprio quel tipo di DNA musicale, insomma, da portare nel film. Sì. Bene Michele, è stato un piacere, speriamo di risentirci presto. Guarda, il piacere è stato tutto mio, grazie mille, grazie a tutti. Alla prossima, ciao Michele. Ciao. Michele Cinque, regista del documentario Sicily Jazz, The World's First Man in Jazz. Irene Tomio di Notorious sulla distribuzione del film Land of Mine, Sotto la sabbia, in uscita in sala oggi giovedì 24 marzo, film al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana della trasmissione con una foto di scena. Irene, ben ritrovata. Anche a voi, salve a tutti. Tutto bene? Tutto benissimo, io sono molto contenta e orgogliosa di distribuire per mio conto e per Notorious Pictures questo film in Italia. Allora, raccontiamo un po' a chi ci ascolta per sommi capi la trama di questa pellicola. Sì, il film racconta del periodo della fine della Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1945 in Danimarca, quando, dopo la resa della Germania nazista, i militari tedeschi hanno costretto i prigionieri di guerra tedeschi a sminare le loro coste che erano state minate dagli stessi tedeschi durante la guerra, perché si pensava potesse esserci da quel lato un attacco da parte dell'Inghilterra. Militari tedeschi che erano per lo più ragazzini di 15-16 anni, di cui la metà sono morti, ma il vero nodo centrale di questo film, oltre a raccontare un fatto storico, anzi a portarlo alla luce, perché è un pezzo della storia che anche la stessa Danimarca tiene un po' nascosta, di cui si vergogna. Quindi oltre all'aspetto storico, è molto importante, ha una valenza molto pesante nel film l'aspetto umano, dove insomma ci vuole far ricordare che siamo tutti uomini, siamo tutti uguali, e quindi bisogna poi andare al di là delle atrocità commesse per andare avanti e capire veramente, ritrovare il lato umano nelle relazioni. Sì, ad esempio una considerazione che mi veniva prima dei titoli di coda ci sono i dati per cui ci dice il film che furono 2000 i soldati tedeschi in Danimarca che rimasero prigionieri a sminare e quasi la metà morirono sminando. Il problema è che, come dicevi tu, facevano parte dell'ultima leva di ragazzi richiamati al fronte, che erano molti dei quali erano minorenni, mentre i gerarchi sul finire della guerra già si erano assicurati la fuga all'estero, ad esempio molti in Sud America, quindi a pagare non sono stati loro ma dei ragazzini. Sì, assolutamente, dei ragazzini innocenti i quali si sono appunto trovati chiamati proprio sul finire della guerra, e quindi a dover affrontare una realtà molto molto più grande di loro. 2 milioni furono le mine messe sotto la sabbia appunto lungo le coste danesi, la metà dei ragazzini è morta. Il film, ci tengo a sottolineare, riprendendo un po' anche le parole del regista, come ha deciso di raccontarlo. Il film è volutamente molto bello visivamente dal punto di vista della fotografia, delle inquadrature, del set. Siamo su una spiaggia danese deserta, un paesaggio idilliaco, ed è proprio il contrasto fra l'idillio di quel paesaggio e quindi la memoria di quello che era prima della guerra e di quello che potrebbe nuovamente essere, nel mentre a minare la tranquillità della vita sia dei ragazzini tedeschi ma dei danesi c'era appunto il devasto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Senti, sulla regia abbiamo informazioni di altri suoi lavori? Non sono mai usciti in Italia. Martin, che è classe 71, a 45 anni, è al suo terzo lungometraggio. In realtà si può dire che è forse il suo esordio che lo porterà a farsi conoscere a livello internazionale. Ha girato altri due lungometraggi, Applause e A Funny Man, ma non sono usciti qui da noi. Spero che dopo l'End of Mine, io stessa sono sincera, sono curiosa di vederli, non li ho visti, spero magari che dopo l'End of Mine escano anche qui in Italia. E con questo film io credo che lui si stia affermando come regista. L'End of Mine sta partecipando a tantissimi festival internazionali, oramai è in giro da Toronto, è venuto qui a Roma, è andato al Sundance, hanno vinto un premio al Tokyo Film Festival, quindi io direi che è proprio la consacrazione di Martin come regista, non solo di lui ma anche dell'attore protagonista, che è Roland Moller, che interpreta il sergente e qui ha per la prima volta un ruolo da protagonista, quindi è il suo primo film da protagonista. Senti Irene, come l'avete incontrato questo film e come avete scelto poi la distribuzione italiana, visto che si tratta del primo film portato qui? Sì, del film siamo venuti a conoscenza a Toronto, quindi l'hanno visto insomma al Toronto Film Festival e ci è piaciuto moltissimo, e abbiamo deciso quindi di acquisirlo e distribuirlo, perché è sì un film di qualità, quindi un film d'autore, infatti sta ricevendo critiche positive a 360 gradi, ma è anche un film che secondo noi parla a un pubblico più ampio, non solo adulti ma anche ragazzi. Da qui anche la scelta distributiva. Il film uscirà, anzi esce in 110 copie oggi. Ci saranno sicuramente sale d'essè, sale cittadine, ma usciremo anche nelle principali situazioni di multiplex, proprio per rivolgersi a un pubblico più ampio e anche e soprattutto ai ragazzi. E qui mi sento di spendere, se ho ancora qualche minuto, su un'iniziativa che abbiamo messo in piedi insieme con Emergency che riguarda proprio il primo giorno d'uscita, quindi oggi. Ci tengo a dire che le mine anti-uomo sono un problema ancora attuale, quindi del mondo moderno. Ci sono 54 paesi del mondo e circa 110 milioni di mine ancora inesplose. Ogni giorno muoiono 10 persone, di cui l'80% sono civili. Quindi ci tenevamo a legarci ad Emergency, e chi andrà a vedere oggi nelle sale Land of Mine sosterrà con l'acquisto del biglietto Emergency per finanziare insomma degli ospedali in Afghanistan, proprio per dare delle cure adeguate, o comunque sostenere per quel poco che possiamo i feriti da mine anti-uomo in Afghanistan. È un'attività a cui tengo particolarmente e mi fa piacere aver fatto questa cosa e averla legata a questo film, che parla fine di un evento storico. È un tema quanto mai attuale, quello delle relazioni, dell'umanità, del capire che abbiamo ancora tanta strada da fare da questo punto di vista. Io ti ringrazio, ricordiamolo, The Land of Mine, Sotto la sabbia, in uscita in sala oggi giovedì 24 marzo. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Irene Tomio di Notorious sulla distribuzione del film Land of Mine, Sotto la sabbia. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con David Grieco, regista del film La Macchinazione, in uscita in sala oggi giovedì 24 marzo. David, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, un grande piacere. La Macchinazione, un film che ho avuto modo di vedere nell'anteprima stampa, raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta, David. Brevemente è complicato, no, brevemente è la storia di come è stato ammazzato Pasolini, in modo completamente diverso da come ci hanno raccontato negli ultimi 40 anni, ma in modo clamorosamente diverso, nel senso che non c'è una parola di vero nella cosiddetta verità ufficiale del delitto Pasolini. E diciamo che sono cose che poi molta gente sa, ne sanno pezzetti sparsi, e vederle tutte insieme adesso, devo dire, dopo aver fatto parecchie proiezioni ed aver salutato il pubblico, ho scoperto che il pubblico non mi manda via e si sta anche 3 ore dopo la proiezione del film, che nemmeno all'epoca del dibattito con 3B o di Fantozzi, la corazzata Potionkin, però è un film che tocca la gente in un modo, devo dire, che mi sorprende, perché la tocca quanto questa storia ha toccato me, che sono cresciuto con Pasolini, quindi mi fa veramente impressione. Questo grazie anche, sto parlando delle reazioni del pubblico, anche dall'aderenza fisica strabiliante tra il tuo protagonista e il Pasolini in carne ed ossa. E volevo chiederti, David, come hai lavorato sul materiale d'archivio che ti ha poi permesso di comporre questo mosaico su una verità diversa da quella ufficiale? Ma sai, a parte non ho lavorato soltanto io, nel senso, io purtroppo un bel pezzo di questa verità ufficiale lo so da sempre, lo so dal 2 novembre del 75, lo so dai processi 76 e 79, e abbiamo continuato, diciamo, noi amici più stretti di Pasolini a saperlo. Poi quando ho deciso che avevo il dovere di fare questo film, l'ho deciso dopo aver rifiutato di scrivere il film di Abel Ferrara su Pasolini, ci ho rimesso le mani a questa storia di cui non volevo più sentir parlare da anni, e ho scoperto che tanta altra gente aveva fatto tanto altro lavoro e che il quadro era totalmente chiaro e totalmente completo, e quindi mi sono avventurato in un'impresa che è stata veramente un'impresa, perché io poi il film l'ho finito di girare un anno e mezzo fa, e l'ho girato molto felicemente, molto con grande convinzione, anche grazie a Massimo Ranieri che si è messo gli occhiali, si è come guardato nello specchio ed è entrato nello specchio e è diventato Pasolini. Dopo un'ora che lavoravamo, io ho pensato di lavorare fino alla fine delle riprese sempre con Pasolini. E tutto questo adesso la gente lo capisce, lo riconosce in ogni minimo dettaglio. Quando io pensavo, appunto, un anno e mezzo fa, lo prenderanno per un film di fantascienza, invece no, e sono serviti tutti gli ostacoli che non vi sto a raccontare, che ho incontrato in quest'anno e mezzo, fino a ieri. L'ultimo l'abbiamo superato ieri, perché di questa storia non si può e non si deve parlare, perché questa storia si porta appresso tutta la strategia della tensione e tutti i tentativi di colpo di Stato in Italia, e cioè un periodo che, come ha calcolato Carlo Lucarelli, ha fatto in Italia 3.500 morti tra civili, poliziotti, carabinieri, magistrati, lo stesso numero delle vittime di 9-11, dell'attentato alle Torri Gemelle. Senti David, da oggi nelle sale, quante sale saranno? Sono 120. Beh, che è un numero, ottimo numero per un film così, non è Quo Vado di Zalone, e anche devo dire con un'esposizione abbastanza incredibile, perché appunto ogni giorno abbiamo trovato qualcuno che ha deciso di far parte di questo progetto, di aiutare questo progetto, e piano piano si è formato un piccolo esercito, che è un esercito che mira poi all'obiettivo vero, finale di tutta questa storia, che è la costituzione di una commissione parlamentare per ricominciare finalmente a riaprire questo caso e a cancellare per sempre tutte queste menzogne che sono state scritte, anche affinché Pasolini venga studiato nelle scuole, che mi sembra il minimo, cosa che purtroppo non accade. Ecco, proprio rispetto alle menzogne c'è un elemento centrale in questa vicenda, che è il libro che poi è rimasto incompleto, Petrolio. Assolutamente, Petrolio era proprio l'ultimo insopportabile atto di Pasolini per una cricca sterminata di potere che lui ha scoperto in tempo reale, che era la P2, e Petrolio non doveva uscire, anche perché appunto uno dei protagonisti di Petrolio è Cefis, presidente di Eni e poi di Montedison, che l'ha creata la P2, e senza contare tutti appunto gli articoli che Pasolini ha scritto sul Corriere della Sera, che nessun giornalista ha mai avuto il coraggio di scrivere cose come quelle che scriveva Pasolini. Poi il petrolio purtroppo è la parola chiave di tutto, è la parola chiave di quello che sta succedendo oggi, è sempre dietro ai delitti. Pensiamo al delitto Matteotti non è stato ammazzato perché era un oppositore del regime, quello era ovvio, sedeva in Parlamento contro il regime, no, è stato ammazzato perché aveva scoperto un traffico di petrolio che l'Italia aveva con l'Inghilterra, appunto, cui vendeva sotto banco il petrolio libico, pur essendo l'Italia e la Gran Bretagna due paesi non nemici ancora, ma assolutamente avversari, ed è stato ammazzato per questo. E l'uomo che ha affittato la macchina e affittato i sicari che hanno ucciso Matteotti era il direttore del Corriere Italiano, diventato poi più avanti Corriere della Sera, che aveva preso una tangente su questo traffico di petrolio dell'equivalente di 10 milioni di euro di oggi. Quindi poi alla fine, come dicono gli americani, find where the money is. dove ci sono i soldi trovi la spiegazione di tutto. David, io ti ringrazio, ricordiamolo, La Macchinazione in uscita in sala oggi giovedì 24 marzo, un abbraccio, in bocca al lupo e speriamo di risentirci anche presto. Anche a voi. Ciao. No, è impressionante, cioè adesso è Pasolini Ranieri che va per la sua strada e sarà sorprendente. Ciao, a presto. Io David. Non c'entro più niente. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. David Grieco, regista del film La Macchinazione. Ecco noi Alberto Valtellina di Lab 80 per parlare della distribuzione del film La Canzone Perduta, un film curdo importante in uscita in sala oggi giovedì 24 marzo. Alberto, ben ritrovato. Buona giornata a tutti. La Canzone Perduta, raccontiamo intanto brevemente la sinossi, Alberto. Ma il film inizia negli anni 90, c'è un maestro in una scuola dispersa nel deserto nell'est della Turchia, che sta raccontando una storia ai suoi ragazzi, arriva un'automobile e lo porta via. Finita questa introduzione, si arriva ai giorni nostri, c'è un maestro, di cui non si sa di più, che vive con la madre, con l'anziana madre, che vorrebbe tornare nel villaggio curdo. Tutto lo sviluppo è nella relazione tra queste due persone. In più c'è il maestro, ha anche una storia con una fidanzata che rimane incinta, quindi lui dovrà in qualche modo riuscire a gestire queste due relazioni. Alberto, come avete incrociato questo film? Ma questo film l'avevamo presentato in una rassegna che si chiama Al cuore dei conflitti, organizzata dalla Bottanta Film. Ci è piaciuto particolarmente, allora abbiamo discusso con la produzione la possibilità di avere i diritti per la distribuzione italiana, ci siamo accordati, tra l'altro sia la produttrice che il regista non arrivano a fare 60 anni in due, sono molto giovani, sono molto. Il regista è un esordiente curdo che vive in Turchia da sempre, però ha sempre avuto una grande attenzione alla lingua curda, alla tradizione curda. Senti, un film importante specialmente in questa situazione di conflitto al momento, si parla di disagio soprattutto legato alle vecchie generazioni e lo sradicamento di chi dai villaggi arriva in una grossa metropoli, si ritrova a vivere in spazi angusti, isolato, insomma in condizioni di estremo disagio e solitudine. Sì, il film è particolarmente interessante perché riesce, pur mantenendo una linearità nel racconto e un'attenzione alle gradazioni, riesce a inserire una serie di problemi centrali, per esempio la gentrificazione di Istanbul, perché di fatto i curdi trasferiti a forza dai loro villaggi nel centro di Istanbul adesso sono spostati una volta di più nelle periferie, quindi la ragione principale del disagio della madre è quella di essere due volte sradicata, in una prima fase dal villaggio, in una seconda fase dalla parte di Istanbul dove era stata spostata 20 anni prima, quindi dove comunque aveva creato delle relazioni in qualche modo. Quindi questo è una delle cose. Il altro, per esempio, è la vita quotidiana di Istanbul. Io ho postato una cosa su Facebook in cui si diceva cartoline dalla Turchia di Erdogan, perché ci sono questi piccoli momenti in cui si percepisce una tensione forte, raccontata in una maniera molto, molto intelligente dal regista. Semplicemente c'è una relazione tra il dirigente scolastico e il giovane maestro, in cui il dirigente scolastico dice: lei ha partecipato a uno sciopero, deve presentare una difesa per quello che ha fatto. Sì, quindi sì, sì, sì. Scivola via, ma si percepisce, deve presentare una difesa per lo sciopero, è già un'informazione forte rispetto alle possibilità alla modalità in cui si vive in Turchia oggi. Sì, sì, sì. Ecco, rispetto a questo, Alberto, per quello che hai avuto modo di vedere, il nuovo cinema curdo? Il nuovo cinema curdo, io ho conosciuto anche a Berlino altri registi curdi, uno dei quali stava per fare un film anche in un villaggio, siccome non poteva girarlo nel villaggio nell'est della Turchia, lui molto tranquillamente diceva: il mio film per come si costruisce si potrebbe far girare tranquillamente in Svizzera. C'è una forte vivacità all'interno del poi di fatto sì, curdo, turco, perché di fatto Erol Mintas, il regista della canzone perduta, a tutti gli effetti è curdo, ma sempre vissuto a Istanbul. È una cosa centrale proprio nella modalità di elaborazione cinematografica. Quello che ci è piaciuto particolarmente è che sì, ci sono dei forti disagi raccontati in background, in qualche modo sullo sfondo, ma la modalità, l'approccio non è mai ideologico, è sempre è quasi documentaristico nel suo lavorare. Di fatto la figura della madre l'attrice non è un'attrice, cioè è la madre di un amico del regista, che si è prestata, pur non volendo, si è prestata, costretta tra virgolette dal capo della comunità curda. Ha già detto che non ne vuole più sapere di fare film, ma è una presenza fortissima. Sì. Alberto, le modalità di distribuzione della canzone perduta? Sono le solite, ci lanciamo su tutto il territorio in tutti i modi all'assalto e vediamo cosa succede. Ci sono, come al solito, mi dispiace sempre fare delle lamentazioni, infatti non ne faccio, però di fatto in Italia non è facile essere dei piccoli distributori, ma vediamo cosa succede. I film che abbiamo in catalogo, come La Bottanza, sono particolarmente interessanti, non che sia, ci sono film interessanti in uscita. I nostri li scegliamo con attenzione, perché, come avevo già avuto modo di dire, li portiamo avanti come se fossero dei figli adottivi. Il film precedente, Moses, il pesce e la colomba, era a sua volta il film di una regista esordiente ungherese, sembrava dovesse avere pochissime uscite, ha avuto degli ottimi riscontri, ha avuto parecchie uscite, ancora adesso lo stanno chiedendo e ha ancora una bella vita davanti, insomma. Ecco, e quello che cerchiamo di fare è far vedere i nostri film, fare in modo che siano gli esercenti stessi a richiedercelo, che sta succedendo, per esempio. Benissimo, allora come riferimento diamo anche sito e pagina Facebook di Lab 80. Alberto, ci sentiamo per le prossime novità. Benissimo, sì. Il sito è il www.lab80.it. Sentiamoci presto, speriamo di avere una presenza massiccia a Roma. Benissimo, a presto, ciao Alberto. Grazie, ciao, un saluto. Alberto Valtellina di Lab 80 sulla distribuzione del film La canzone perduta, in uscita in sala oggi giovedì 24 marzo. Samuele Gottardello, co-regista del documentario Ex Out. Samuele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Allora, un film che avevo conosciuto un po' di tempo fa, qualche mese fa, perché era al Via Emilia Doc Fest. Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta, Samuele. Beh, è un film che è nato come un'esperienza di laboratorio. Ci siamo trovati in 11 videomaker a Milano, perché abbiamo deciso tutti quanti di seguire un laboratorio presso lo IED di Milano con Andrea Segre come direzione artistica. Sì. E niente, Andrea ci ha ovviamente insegnato a fare documentari e ce l'ha insegnato facendocene fare uno. Ecco, questo era lo scopo sì. del laboratorio, fare un documentario per imparare a farli. Okay. Ed è nato Ex Out, ci ha dato un tema ovviamente, ha scelto un tema veramente difficile, cioè parlare della finanza, cercando testimonianze da parte delle persone che fanno parte di questo mondo. e non è stato facile, ovviamente avevamo anche poco tempo, tre mesi per farlo. Senti, quanti eravate coinvolti nel progetto? In 11 da, diciamo, più o meno tutta Italia. Io da Veneto, poi un altro collega sempre da Veneto, qualcuno da Milano, pochi, Friuli, insomma sparsi dall'Italia. Quella. Senti, sì. Per quanto riguarda, allora, lui vi ha dato indicazioni sul tema, poi come vi siete mossi? Anche qua, insomma, ci siamo mossi, abbiamo cercato un po' di seguire, insomma, quelle che sono state le sue indicazioni. Cioè, ovviamente l'inizio è stato proprio partire dagli insider, cioè dalle persone che fanno parte di questo mondo, che poi magari non dovranno per forza essere dei protagonisti del documentario, però cominciano magari a darti un po' un'idea su com'è questo mondo. E quindi abbiamo cominciato proprio ricostruendo piano piano, chiamando in aula, dove facevamo appunto questo laboratorio, persone che magari appartenevano a vario titolo a questo mondo, quindi ex direttori di banca, proprio finanzieri, insomma. E poi pian piano abbiamo sguinzagliato tutti noi abbiamo cercato tra i nostri contatti se c'era qualcuno magari che aveva fatto la Bocconi o si è occupato di finanza a vario titolo. E ovviamente fa conto, abbiamo contattato, non lo so, 30-40 persone, tutte ci hanno detto di no perché il mondo della finanza è molto molto molto riservato su queste cose, insomma. Poi ovviamente appena si parlava di Segre, anche questo non era proprio, sai com'è, lui è abbastanza conosciuto per fare i documentari in una certa maniera. Sì, è un nostro amico e più volte ospite della trasmissione, quindi conosciamo bene. Sì, infatti, diciamo che era un ottimo biglietto da visita, perché ovviamente, cioè, quando fai il nome di una persona comunque che ha un certo successo, tutti quanti, insomma, sono molto attenti alla cosa, però ovviamente proprio diventano molto attenti, capito? Quindi era un po' difficile, perché erano molto rigidi, sì, nelle cose che ci dicevano. E ovviamente era un po' difficile trovare del materiale interessante per un documentario, ma era interessante per un'intervista, no? Così. Sì. Però sì, insomma, ecco. Senti, Samuele, le scoperte più sorprendenti in questa vostra inchiesta, nel tuo lavoro in particolare, quali sono state? Beh, innanzitutto direi che tipo la scoperta sorprendente è che siamo riusciti a finire un documentario ecco, perché nessuno di noi ne aveva mai fatto uno prima, abbiamo proprio cominciato così, ecco. Sì, sì. E proprio parlando con Andrea ci ha detto: ragazzi, ok, l'avete finito, però questo è un po' l'inizio di un documentario, d'ora in poi dovete, insomma, fare tesoro delle cose che avete imparato qua e svilupparle di più con le vostre, diciamo, caratteristiche e con le vostre tematiche. Ecco, proprio a questo proposito, invece, sull'oggetto del vostro lavoro, cosa hai scoperto che ti ha sorpreso? Una grandissima chiusura da parte di questo mondo, sì. E molto molto restii e molto legati all'immagine, quindi puoi ben immaginare quanta, diciamo, naturalezza ci fosse. Noi abbiamo cercato di selezionare tra tutte le persone che abbiamo conosciuto e intervistato, c'è stata un'opera di selezione molto grande anche lì, e di selezionare le persone che ci sono sembrate le più naturali possibile, insomma, sì, quelle che ci, sì, ci stavano raccontando qualcosa di sé, ecco. Sì, sì. E forse una cosa che mi ha un po', diciamo, colpito, ecco, è stato il fatto che molte di queste persone non avessero una grande percezione della crisi economica, italiana, perché, diciamo, faceva parte della nostra ricerca questo, quello di cercare di conoscere il mondo della finanza e farlo conoscere con un documentario negli anni della crisi. Sì. E questo era, ecco, un'altra parte del tema che ci aveva dato Andrea, era negli anni della crisi, e appena si cominciava a parlare di crisi, allora, o non volevano parlare o ne parlavano in termini come di persone che non hanno mai vissuta. Sì, sì, sì. Ecco. Come chi si muove in modo quasi in un terreno quasi extraterritoriale, chiamiamolo così, in altri ambiti rispetto alla vita quotidiana della gran parte della popolazione, insomma, poi alla fine. Proprio così, e per questo motivo abbiamo anche scelto di restituirlo in video, cercando di raffigurare una città di Milano completamente svuotata dalle persone, no? Sì. Proprio perché era questo, diciamo, senso di distacco che sì. avevano queste persone, e l'unica maniera per rappresentarlo abbiamo trovato questa, perché cioè, no, rappresentarla vuota. Sì. Ecco. Senti, e per saperne di più su internet di X Out, del vostro documentario, dove si può vedere? Allora, non, al momento non è ancora online. No, rispetto alle informazioni, insomma, sul documentario. Sì, allora beh, abbiamo la pagina Facebook che appunto è X Out, X bar Out. E nella pagina Facebook ci sono, insomma, un po' di informazioni, la teniamo abbastanza aggiornata. Bene, bene. Samuele, io ti ringrazio, è stato un piacere, speriamo di risentirci per altre novità. Va bene, grazie. Un abbraccio, a presto. Ciao. Ciao. Samuele Gottardello, co-regista del documentario X Out. Gaetano Crivaro, ci sei? Pronto? Ciao. Eccoci. Ciao a tutti. Regista del documentario Radio Migrante, ma noi ci eravamo già sentiti almeno in un'altra occasione. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Gaetano. Grazie a te. Allora, Radio Migrante, ho avuto modo di scoprirlo su Italian Doc, dacci qualche coordinata su questo lavoro, di cosa stiamo parlando? Allora, Radio Migrante, beh, è un film che ho diretto insieme a Emanuele Milasi, quindi un film in due, non sono l'unico regista di questo film. È uscito un mesetto fa dal montaggio, e niente, è ambientato a Crotone, racconta un po' la città attraverso la musica, i migranti, e nasce un po' in un certo senso su commissione, ovvero è prodotto da un festival di musica che si chiama Festival dell'Aurora, che ha coinvolto una casa di produzione che si chiama Ranfilm di Reggio Calabria, e ci hanno chiesto di realizzare un film sulla musica ambientata a Crotone. Quindi diciamo che come input è un film che nasce successivamente da noi. Poi io sono di Crotone, quindi hanno ben pensato di chiederci di lavorare su questa cosa. Insomma. Senti, l'idea della radio? Guarda, l'idea della radio, Radio Barrio è una piccola radio molto attiva a Crotone, indipendente, che da qualche anno porta avanti questi spazi destinati o liberi, in cui molti ragazzi, cioè Crotone negli ultimi 10 anni è diventata una città, diciamo, a metà tra italiani e migranti, perché c'è un grosso centro di accoglienza, il CARA di Sant'Anna, e quindi molti si riversano a Crotone, quindi c'è una città che ha cambiato aspetto negli ultimi 10 anni. E quindi Radio Barrio offre questi spazi dove pakistani, algerini, chiunque, a volte gestiscono delle trasmissioni radio che permettono di entrare in contatto con il Pakistan attraverso la radio, perché è una web radio, non ha. Quindi io stavo lavorando con un ragazzo che fa una trasmissione in questa radio, e quindi quando ci hanno chiesto di girare un film sulla musica a Crotone abbiamo immediatamente pensato alla radio e alla storia di Alessandro, che è un medico che lavora per una ONG a Crotone, che spesso, siccome a Crotone e nella stazione di Crotone ormai in dismissione hanno smantellato molti binari, vivono molti migranti, Alessandro oltre a fare il medico lo fa attraverso la musica, cioè entra in contatto con queste persone portando una chitarra o facendo dei laboratori di musica o cose così, e quindi abbiamo intrecciato queste storie. Uh-huh. Abbiamo pensato di partire proprio da lì. Senti, la convivenza tra cittadinanza e migranti? La convivenza è, diciamo che a parte i volontari o comunque persone che per un modo o per un altro si sentono in dovere di non so, aiutare chi ha bisogno, le solite la città è un po' indifferente. Mm-hmm. Intesa come se non ci si accorgesse che la città è cambiata completamente. Il centro storico non è più abitato da crotonesi, però c'è, diciamo che ci sono quelle piccole realtà che poi abbiamo provato anche a raccontare, come la radio appunto e come altre realtà che, come in tutte le città d'Italia, si fanno carico di problemi che, diciamo, non so, la politica o delegano a noi. Cioè, non so se l'ho spiegato bene quello che voglio dire. Sì, abbastanza, dai Samuel. Senti, che percorso farà adesso il documentario? Guarda, intanto è appena uscito dal montaggio, quindi stiamo pensando un attimino una distribuzione per festival, poi successivamente, comunque credo da settembre, inizieremo a fare delle proiezioni nelle scuole o diciamo in contesti dove comunque possiamo anche ragionare al di là del film. Mm-hmm. Però siamo, diciamo, cioè comunque siamo, c'è un film prodotto con un budget irrisorio, quindi la distribuzione è anche a nostro carico. Stiamo cercando il modo migliore per iniziando dai festival, diciamo. Sì, per il momento. Sì, iniziando dai festival. E in rete? In rete, chiunque ci voglia contattare, chiedere, magari se qualcuno si vuole offrire per distribuirci il film, può trovare i contatti sul sito della produzione, che è ramfilm.it, e su Facebook basta digitare Radio Migrante per andare alla pagina del film, dove ci sono i nostri contatti, recapiti e quant'altro. Bene, Gaetano, io ti ringrazio, facci sapere poi degli sviluppi rispetto al percorso di questo documentario, speriamo presto. Assolutamente, speriamo prestissimo. Un abbraccio. Grazie, buona giornata. Ciao. Buon lavoro. Gaetano Crivaro, coregista del documentario Radio Migrante, e con lui terminiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming. Sull'home page del sito internet della radio, ondarossa.info, c'è Ascolta la diretta. Per le informazioni, sempre sull'home page, la colonna centrale è quella di trasmissioni e lì trovate Visionari. Per Facebook c'è la pagina Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.